as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qua, siamo di nuovo al Pane Rose. Settimana scorsa abbiamo avuto qualche problema, infatti siamo un po' in ritardo con questa puntata. Una puntata anche qui fuori dagli schemi per quanto riguarda il Pane Rose. Ricordiamo a tutti quelli che non ci conoscono che noi siamo una trasmissione che affrontiamo temi soprattutto legati al mondo metalmeccanico. Io sono un operaio metalmeccanico. Legate alle lotte di fabbrica, dei luoghi di lavoro e non solo di fabbrica, ma ogni tanto affrontiamo e guardiamo anche il mondo di lavoratori che cosiddetti non sono proprio legati al mondo di cui noi spesso parliamo. E oggi, siccome sono stato invitato a questa inaugurazione della nuova sede di questo Selene Centro Studi Ecodanza, stiamo parlando di un'associazione che si occupa di tante cose, fondamentalmente sono delle danzatrici, ma che fanno tantissime cose. Infatti quel giorno lì c'è stato un seminario molto interessante prima della inaugurazione della nuova sede, che è in via Lombardia 36, in zona Mazzini, a Bologna. Ripeto, loro fanno tantissime cose, da seminari di vario genere, anche storia della danza. Stanno svolgendo adesso ultimamente proprio dei seminari, e chi è interessato vada sul loro sito Instagram di Selene Ecodanza Centro Studi, oppure sulla loro pagina internet. Però fanno anche tantissimi spettacoli in cui danzano, fanno una danza, diciamo, contemporanea, stiamo parlando di danza contemporanea, e lì abbiamo incontrato Martina del Prete, che è la presidentessa di questa associazione, con cui abbiamo, insomma, colloquiato. E io chiaramente, certamente voglio far conoscere il loro lavoro, perché a me piace anche l'arte, un'arte che non è così come ho spiegato nel mainstream. Loro sono delle artiste, portano anche avanti dei progetti educativi, non abbiamo parlato, ma loro sono delle femministe, chiaramente problematiche legate alle donne, all'ambiente, alla pace. E niente, adesso un bellissimo pezzo, poi sentiamo l'intervista che ho fatto a Martina, che spiegherà meglio di me la loro associazione, e poi ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. Thank you. Allora, siamo qui in via Lombardia 36, mi avete invitato a questo evento, Selene, associazione, vi conosco come ballerine di Ecodanza. Danzatrici ancora meglio, però ecco. possiamo anche parlare appunto in altri termini. Noi siamo qua in via Lombardia perché oggi 36, inauguriamo, diciamo, a Bologna, 36, terzo piano, allora per essere precisi, perché inauguriamo questo nuovo spazio, questa nuova casa operativa dell'associazione Selene Centro Studi Eco APS. All'interno di uno spazio condiviso con la Scuola di Pace, quindi con altre realtà che si occupano di comunità, di sociale, di corpo, dove speriamo possa nascere una collaborazione oltre che una convivenza, ma ne siamo abbastanza sicure. E siamo molto felici di questo cambiamento perché ci permette di sentirci più in risonanza con un ambiente che si dedica alla cultura. Oltre a questo spazio comunque manteniamo viva chiaramente la gestione di un centro culturale ai margini che si chiama Palle 811 e che è un po' quello invece la sede della nostra progettualità culturale. Noi vi conosciamo come le ragazze del Palle 8 in radio, spesso vi intervistiamo perché fate un sacco di iniziative, la campeggia e tante iniziative. Feste, contaminazioni, multispecie. Sì, effettivamente è vero, Palle 811 è un centro culturale che è a Rastignano, nel parco del Palle 8, allora, per chi non vi conosce. Sì, in realtà è Bologna, proprio. Sì, è vero, vero. Ufficialmente è Bologna, sì. Però è percepito come una realtà di Rastignano perché è molto vicino a Rastignano, è molto vicino alla stazione dei treni di Rastignano, l'autobus, la fermata Palle 8 Rastignano, quindi insomma effettivamente è una realtà che è percepita come rastignanese, però è ancora Bologna, è proprio un margine, certo. E infatti del margine noi ci facciamo veramente insieme di tutta la progettualità e succederanno tantissime iniziative culturali, naturali, sociali, di feste, di progetti, di rassegne bellissime. Domenica c'è una festa, so quello che so. Domenica 23 marzo c'è la festa di primavera, in realtà sono queste domeniche che abbiamo iniziato a fare quando il centro culturale è stato alluvionato, purtroppo, e quindi per un po' ripristinare un equilibrio anche energetico abbiamo incominciato a fare delle domeniche di famiglia allargata e da lì ci portiamo ancora avanti questa pratica che ci sembra molto conviviale e molto vitale. E quindi anche domenica 23 facciamo un pranzo sociale dove la Paleotta, che è il nome del punto ristoro, è attiva, dove ci sarà lo swap party, quindi scambiamo vestiti per mettere in circolo, mettiamo musica, siamo al prato, al sole e un po' anticipiamo, facciamo spoiler dell'estate a Paleotta 11. Certo, ci sono un sacco di iniziative, ma voi siete anche danzatrici, ha detto bene, io ho preso in giro con ballerine, perché insomma, danzatrici, e siete lavoratrici della danza, artiste. Io vi ho conosciuto bene, vi ho visti lavorare, a parte qualche iniziativa che avete organizzato, ma Art City, devo dire che avete avuto molto successo in quella chiesa sconsacrata, io sono venuto a vedervi. Siete state molto brave, devo dire, e avete riscosso anche successo, c'era moltissima gente, c'era una fila incredibile per vedervi e sono rimasto molto colpito perché c'è un lavoro dietro molto molto importante, c'è la scenografia, conosciamo benissimo Roberta Zerbini che fa spesso, segue le vostre scenografie, che fa parte Camila Zerbini, certo, Camila Zerbini, certo. E che insomma c'è tutto un lavoro dietro perché è stato molto molto importante quel lavoro. Art City, insomma, io penso che sia stato forse tra gli spettacoli più belli che ci sono stati, forse l'unico credo di danza che c'è stato. E la domanda che ti volevo fare, che il Pane delle Rose si occupa di lavoratori, io voi vi conosco come lavoratori, lavoratrici, avete anche dei ragazzi spesso che collaborano con voi come attori, la maggior parte siete donne chiaramente, e voi come donne lavoratrici, le vostre difficoltà che incontrate, perché mi immagino che vivere di arte, perché voi vedete questo, fate tantissime cose, com'è? È dura, non è dura? Come vi trovate? Cioè, come funziona? Noi ci chiediamo, il Pane Rose si occupa di questioni di lavoro. Guarda, grazie per la domanda, ecco. Perché per noi il tema del riconoscimento del lavoro culturale è un grandissimo tema che è proprio, diciamo, un motivo anche del nostro fare artistico, cioè noi come associazione, come compagnia che produce, tuteliamo e lavoriamo grazie appunto al mondo dell'arte, al mondo della cultura, che è un settore difficile, pieno di contraddizioni, a volte non sostenibile, però appunto noi ci poniamo in modo che questo possa essere riconosciuto come lavoro, e quindi diciamo tutte le persone che collaborano con noi e noi stesse chiaramente lavoriamo proprio affinché ci sia una sostenibilità, un riconoscimento, un rispetto delle anche normative per i lavoratori, che possa difendere questa categoria dei lavoratori dello spettacolo, che comunque vive un momento di difficoltà generale. Quindi le difficoltà quali sono? Le difficoltà sono che il mondo della cultura è un mondo ancora a volte non percepito come un mondo di produttivo, di produzione, di economia, e quindi i finanziamenti che arrivano per sostenere questo tipo di progettualità, questo tipo di fare, spesso non sono sufficienti per coprire tutte le spese, i costi, e quindi tendenzialmente la logica è sempre quello di un po' restringere le giornate di prova, restringere i budget affinché comunque le cose possano essere fatte, anche perché il mondo del terzo settore in cui noi operiamo, certo, è colmo di anche del fraintendimento del volontariato, certo, dove noi non ci posizioniamo pur avendo delle risorse volontarie all'interno della nostra associazione, per forza, vedi il servizio civile, che sono elementi in questo momento importantissimi per far sì che noi possiamo continuare a lavorare. Noi investiamo tanto su appunto il cercare di far lavorare danzatrici, danzatori, performer, ma anche persone, artiste diciamo di vario genere, che possano con il loro pensiero in qualche modo portarci alla complessità del presente. L'esempio di Art City per noi è stato un investimento che come compagnia abbiamo fatto per riconoscere il nostro lavoro e per partecipare alla vita artistica della città. Effettivamente è stato uno dei pochi appuntamenti forse dentro la città dove è stato portato il corpo. È un evento molto grande, Art City, dove noi ci teniamo ad essere perché appunto ci percepiamo comunque come elementi artistici della città, ed è avvenuto all'interno, come dicevi tu, della chiesa San Barbaziano, ex chiesa San Barbaziano, uno spazio consacrato gestito attualmente dall'AICS di Bologna e con la collaborazione della direzione dei musei della regione, ed è stato in concomitanza con anche un altro bellissimo lavoro artistico di Per Barclay, La strage degli innocenti, certo, con il quale noi abbiamo interagito e quindi abbiamo portato una visione che potesse appunto convivere con questa bellissima opera che era già ospitata. Io ho visto quello che voi avete fatto, mi sono andato a documentare perché per non fare brutte figure, e ho visto che voi lavorate anche moltissimo con le scuole, tipo fate anche dei tour cercando di portare dei valori, come può essere la pace, come può essere l'amore per l'ambiente, cioè Paleotto in un parco, voi siete diciamo come delle fate, no? In un mondo di in un delle streghe, ci piace di più. Beh, io non lo volevo dire, però sì, può essere. E questi, voi portate anche la cultura nelle scuole, avete fatto uno spettacolo bellissimo in estate, perché voi non siete nel mondo del mainstream cosiddetto, cioè non è che la gente viene a vedervi e deve pagare il biglietto, la maggior parte delle volte vi autofinanziate, fate delle cene, delle private finanziarvi, vedi anche i finanziamenti. Che pubblici, pubblici perché, che sono utilissimi, certo, senza di quelli effettivamente, perché chi fa come voi dell'arte, cioè veramente un lavoro anche indipendente spesso, perché portate degli argomenti che non sono, cioè non è che fate diciamo roba commerciale, ecco, non siete commerciali, e questo è, io mi immaginavo la difficoltà di uno che oggi come oggi non fa la roba commerciale, in cui vai là a pagare il biglietto, vedi le ballerine insomma che ballano qua là, invece no, voi ne fate oltre, anche educativo in certo senso il, certo, vostro lavoro. E noi ci poniamo veramente ai margini dei contesti, ma io penso che questo sia veramente legato ad una visione artistica che ci appartiene e a cui aderiamo completamente, non potremmo fare diversamente per aderire al nostro senso, per aderire alla nostra visione. Quindi c'è una difficoltà sicuramente perché non siamo tra i le proposte dominanti, però c'è anche, diciamo, la necessità, secondo me, almeno noi la percepiamo così, e quando incontriamo le persone in questi luoghi succedono delle connessioni molto particolari e molto necessarie, mi viene da dire. Rispetto all'attività educativa, una grandissima parte dell'associazione si dedica proprio alla diffusione, alla divulgazione. Noi lavoriamo anche con le scuole, sia appunto da un punto di vista didattico, di laboratoriale, che anche con la distribuzione di spettacoli, che molto spesso sono veramente un po' un luogo di incontro, anche questo mi viene da dire necessario, ma voglio cambiare parola, molto visionario e molto innovativo. Innovativo anche, sì. Sì, che è una parola che, che ecco, torna. Comunque. Una cosa che ti volevo, io penso che questo posto che vi hanno dato, vi siete spostati, prima eravate in un altro posto, ho capito bene, questo posto è una biblioteca, cioè secondo me vi è stato riconosciuto questo ruolo educativo innovativo, perché qui fondamentalmente il vostro ufficio, la gente qui può venire a prendere dei libri e può... Sì, insomma. Questo è uno spazio di cultura dove quindi ci sentiamo perfettamente rispecchiate, e quindi penso che staremo molto bene. Ok, in bocca al lupo. Grazie. Senza centro né principio, cosa avrei visto del mondo senza questa luce che i miei pensieri neri. Quanta pace trova l'anima dentro, scorre lento il tempo di altre leggi, di un'altra dimensione, e scendo dentro un oceano di silenzio sempre in calma. Let me shine fast the sun. Years like this. non potevamo che concludere l'intervista che abbiamo fatto a Martina. Ripeto, chi si è collegato solamente adesso, ricordo a tutti che si può comunque ascoltare nella pagina Facebook Il Pane e le Rose, a vedere il podcast di tutte le puntate. Perché chi si è perso questa puntata magnifica in cui abbiamo parlato di lavoratrici, in questo caso dell'arte della danza, di Bologna, abbiamo intervistato Martina Del Prete, la presidentessa di Serena Centro Studi Ecodanza, che si trova in via Lombardia 36 a Rosario a Bologna. Sono le ragazze del Paleotto 11, molto bene, sono conosciute anche soprattutto per il loro centro che hanno al Parco del Paleotto, prima di Rastignano. Ora, le abbiamo intervistate perché fino adesso abbiamo davvero intervistato lavoratori che vivono con la musica, che vivono con la pittura, abbiamo intervistato lavoratrici autonome che fanno le commercialiste, che si occupano che non sono prettamente lavoratrici dipendenti. Qui abbiamo un altro tipo di lavoratrici, abbiamo le lavoratrici del terzo settore, di cui effettivamente avete ragione, ne abbiamo parlato poco. Io ho anche lavorato quando facevo l'università nel terzo settore, ecco perché ho voluto far sentire la loro voce, le difficoltà di chi vive di arte, chi vive con il volontariato ed è costretto soprattutto per il tipo di arte che fa, per il tipo di quello che svolge. Ripeto, non stiamo parlando di persone che non sono nel mondo del mainstream e fanno della danza veramente una forma di arte, di comunicazione, che hanno tantissime difficoltà. Io le vedo barcamenarsi, ho parlato con loro, chiaramente l'intervista è stata, insomma, quello che è stata, non ne abbiamo tanto spazio, ma con loro io ho parlato, ho chiesto: ma voi cosa fate oltre a lavorare per Ecodanza? Loro fanno tante cose. Ogni lavoratrice di Selene non fa solo quello, non può fare solo quello. Hanno tantissime tipologie di lavoro, perché oggi a Bologna, questa è la realtà di chi vive quel lavoro, per poter sbarcare lunario, pagarsi l'affitto, pagarsi il mutuo, perché molti di loro hanno anche delle famiglie, per poter portare il pane a casa e poter sopravvivere e vivere in maniera degna, sono costretti a fare mille lavori e a cercare in tutti i modi di farsi autofinanziare, perché non scendono a compromessi. Stiamo parlando di compagne fondamentalmente, stiamo parlando di donne che su tanti temi sono all'avanguardia, sono innovative e hanno fatto una scelta di vivere la danza in maniera artistica, contemporanea, moderna, che educa e porta tantissimi valori importanti, che cerca anche in certo senso di cambiare la società, di renderla migliore. Chi va al Paleotto, frequenta il Paleotto, va in mezzo a loro, sente questa pace che c'è tra di loro, questa tranquillità, questa voglia di vivere, voglia di essere diversi, lontano da tutte le problematiche che oggi ci sono collegate alle tecnologie, collegate allo stress della vita quotidiana, collegate a tutti i disvalori che oggi sono presenti. Ma c'è bisogno di un aiuto. Martina l'ha detto chiaramente: non si può andare avanti così, perché è difficile vivere di arte in questo paese, anche a Bologna. Purtroppo i finanziamenti sono sempre più difficili da trovare, le spese sono sempre altissime. Sopravvivono grazie anche al lavoro di molti volontari, e bisogna che lo Stato, la Regione, il Comune aiuti tutte queste forme di arte, perché è importante. L'arte è vita, l'arte è speranza, e l'arte è cambiamento della società quando è rivoluzionaria, e va sostenuta e va aiutata. Ecco perché un appello che io faccio a tutti i compagni di cambiare la società anche in maniera che si possa vivere l'arte in maniera serena e non dover distruggersi la vita per poter fare mille lavori, perché questo mondo veramente non permette a queste lavoratrici di vivere in maniera serena la loro arte. Ecco, io vi saluto e sentiamo la prossima puntata. Orgoglioso de estar.